Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sto guardando con attenzione quella ragazza. Devo dire che mi semina inquietudine, perché non riesce a stare più di un quarto d'ora seduta accanto alla stessa persona. Ha già cambiato sedile almeno 4 volte e viene da un altro scompartimento, presuppongo abbia fatto già la stessa cosa nella mezz'ora precedente. Si siede vicino a un uomo, o sempre un uomo davanti, o comunque in un gruppo di 4 poltrone in cui c'è un uomo seduto. Rimane così, come se fosse in attesa, si guarda intorno, sembra quasi annusare l'aria. Sei molto schizzinoso, io vedo che cambi continuamente posto in treno. Ti siede vicino a una persona, t'alzi da un'altra parte, perché? Perché sentivo questo signore che secondo me aveva mangiato pesante, ecco, e però non se ne poteva approfittare in questo modo, certi odori. Quindi diciamo, te sei convinta che l'assioma su cui ci siamo cullati per generazioni, il maschio da puzzare, non è esattamente così? Dipende questa cosa, perché per esempio tra i maschi da evitare ci sono comunque questi inditi, tu lo puoi riconoscere uno che però ha queste perdite intestinali. Ah, addirittura, parliamo proprio esplicitamente, ma quello è un problema, fisico, una patologia, chiamala come vuoi, non è il maschio che ha poca igiene, è il maschio che non si controlla nelle sue, diciamo, fuoriuscite aerose, capito? Ecco, questo è il fatto. Ma non si controlla nemmeno davanti a una donna? No, ma alcuni sono orgogliosi di mostrare questa loro... Ah, ti dico, ah, senti qualità. Questa, amore mio, così? No, io dico prima, prevenire meglio. Cioè, ma come fai? Li riconosci in faccia, scusa? Ma a volte la faccia c'è, perché... E com'è? Spiegami questa lettura lombrosiana, il maschio scorreggione, come si presenta, scusa, tanto bisogna dire le cose con il loro nome. Allora, può essere per esempio anche giovane, ma già un accenno di panzetta che è un po' così sospettosa. È la colite che si vede. Un ragazzo molto giovane. Sì, c'è un po' di questa colite che si vede, però la faccia non è facile da descrivere, però dagli abiti si può capire. Perché di solito quando questi sono ovviamente dei mammoni che mangiano da sempre a queste tavole imbandite di mamma, montoni arrosto. E quindi, chiaro. Producono tipo gas. La olla potrida di Casanova, cioè queste carni che sono marce, questa brutta cucina di mamma che poi si deposita sugli abiti. C'è questo odore di rognone nell'aria che rimane. Ma quello rimane anche nei ristoranti. Se dopo andiamo nel vagone ristoranti, ti rimane quell'odore di ribollito, di non so, di rosbif riscaldato. Il rosbif riscaldato è l'odore tipico della carrozza ristorante. Sì, ma questi proprio li senti anche all'aperto. Quindi se uno ti si presenta così al primo appuntamento, questi odori qua. L'odore di cucina, si è impregnato il maglioncino di odore di cucina. Ma no, manca tutto proprio di odore di cucina di mamma. Mi sto annusando perché è terribile. No, capisco, è una cosa terribile, sì. È una cosa che sente. Quindi già ti puoi immaginare cosa possa uscire da quegli intestini lì, se soltanto sul cappotto, se è rimasto lì come un fantasma proprio, che non se ne va. Un fantasma olezzante, sì, questo è brutto. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. E questo quindi, tu diciamo, se già senti un maschio che sulla giacca c'ha il deposito di cotechino e lenticchie, di minestra col cavolfiore così, è meglio tenerselo lontano. Certamente, si evitano poi quelle pratiche mattutine di doverle scrollare via dalle lenzuola tutte le mattine, ma no. Ci sono anche tante ammogliate che o fanno una stanza separata e basta, dopo anni di matrimonio. Sì, però guarda, ci sono delle statistiche in questo. Diciamo che statisticamente l'uomo è il primo a lasciarsi andare a questa intemperanza del talamo coniugale, ma lo segue la donna, diciamo, di qualche mese. Una volta rotto il ghiaccio, che omnia licet sotto le lenzuola, in realtà anche la donna ogni tanto abbandona questa sua pudicizia, che vorrebbe che le donne olezzassero soltanto e profumassero soltanto, si lascia andare anche lei. Ma quella è la risposta per spregio, penso, perché dopo mesi patiti sotto sta camera a gas. Sì, ma la donna è solito negazionista da questo punto di vista. Sembra, giurano e spergiurano che loro mai nella vita hanno fatto quello che è normale che tutti gli esseri umani facciano, con discrezione, no? Sì, noi le compriamo già fatte, in effetti, si dice, però ma rispetto a certi professionisti siamo proprio delle dilettanti. E in treno questo è pesante, ma ci sono altre categorie, diciamo, di maschi da evitare, oltre a quello che naturalmente è l'intemperante intestinale per eccellenza? È l'eterno studente dello IED, secondo me, ma quella è un'altra piaga sociale. Cosa fa? Studia fotografia, arte, design, queste cose qua? No, da grande vuole fare il premio Oscar, cioè cinema. Sì, vuole, non si sa bene a fare che cosa, però intanto ci prova. E lo trovi sempre a questi pranzetti vegani, questi apericena animalisti, è impegnato a girare queste serie TV che per fortuna non vedremo mai, tipo quelle appunto sulle comunità di vegani che poi litigano tra Però cioè, a qualcuno va bene, e poi vedi come The Pills hanno cominciato così e sono diventati un film. Sì, il film non sono riuscita neanche a vederlo, perché era terribile. Però i ragazzi hanno cominciato a fare le cose su YouTube e poi sono diventati, ha fatto un film vero, quindi sì. Diciamo, c'è una speranza che comunque questo maschio da evitare diventi poi magari un importante regista, e avresti perso un'occasione grandissima se lo eviti in partenza, no? Sì, ma di solito resta il fidanzamento finché fa lo studente fino a 40 anni, poi alla fine magari trova l'attrice o trova qualcun'altra da impalmare, e tu nel frattempo sei rimasta poverissima, perché ovviamente te lo sei dovuto mantenere. Allora, se resta uno sfigato, è uno sfigato a priori, se fa fortuna ti molla e ne trova un'altra, questa è la sintesi. Certo, comunque vada, non è, diciamo, una bella cosa, quindi è da evitare, assolutamente. Vabbè, già due, ce ne sono altre di categorie? Quella appunto che non farà, magari non vuole fare il regista, ma è quello che proprio non vuole fare il niente di lavoro, vuole fare il mantenuto, sta da mamma, anche qui è un'altra. Però la mamma è costante, in tutte queste tre categorie c'è la costante presenza della madre, non è che tu hai un problema proprio con le madri degli uomini che frequenti? Con le suocere? Non lo so, o le probabili, ipotetiche, o quello che oggi è l'esito delle suocere, per citi sempre le madri. Sì, è colpa loro se vengono su questi mammoni qua. Comunque questa è un'altra categoria che è largamente diffusa, è quello che è in cerca di qualcuna con un appartamento libero, così almeno salta tutto. Piazzarsi a casa di una donna, a casa munita. Esatto, cucina munita anche, chiaramente. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi cerca una mamma più giovane, tutto sommato. Sì, cerca qualcuno che comunque magari possa permettergli di continuare a non lavorare anche. Ecco, e quando questo ti si piazza in casa, che sarà successo, una persona che tu magari mossa dalla tenerezza, dall'amore, dalla passione, dici ma sì, vieni pure a casa mia, sono felice, sono contenta. Poi cosa fanno? Si piazzano in casa e fanno i despoti? Cosa succede? Non fanno niente, si piazzano sul divano, fanno finta di cercare qualche lavoro e basta, si presentano quando è ora di mangiare, sono mantenuti in tutto e per tutto, replicano quello che era successo per i primi 20-30 anni di vita a casa di mamma. Solo che ogni tanto ti danno anche qualche botta, ecco, che la madre non è possibile. Sì, quello penso proprio di sì. Quindi hai una controparte comunque, hai un oggetto sessuale a disposizione. Certo, se si riesce a... È un dout des, capito? È il pisello in cambio del ravanello, una cosa del genere, capito? Sì, esatto. Tu gli fai l'insalatina e lui provvede. Perché non è funzionale questo tipo di scambio? Alla fine, scusa, hai un uomo oggetto, lo sfami, in fondo si accontenta di poco. Gli prendi l'abbonamento Sky e le partite, insomma due o tre cose, non è che vorrà molto, no? Sì, però poi ci si annoia. Che vuoi, certo, è chiaro. Non siamo nell'ambito di una coppia che ha lunga vita. Non c'è una via accettabile di maschio, perché veramente è deprimente pensare che siamo soltanto così. Sono ormai le nuove generazioni, noi ormai siamo fuori da ogni tentazione, lo sai, ormai è un sessantenne che ci fai più niente. Puoi accompagnare gli altri. No, ma sono meglio i sessantenni rispetto a questi trentenni qua che sono in circolazione adesso. Sì, sicuramente. Vivono di ricordi i sessantenni. Sì, vivere di ricordi è vero, però ci sono appunto queste diversi casi di ragazzi appunto che non hanno niente del maschio che possa attirare. Ah sì, poi vabbè, c'è anche quello meglio piazzato, sicuramente più interessante, professionista, ma quando si incontra quello col braccio corto è terribile. Ah, l'uomo pitocco, sì, ci sono. L'uomo pitocco che può, ma non vuole. Come agisce? Dove si vede, diciamo, la sua parsimonia e il suo essere pidocchioso? Da cosa si vede? Si veste male? Spende male? No, si veste bene, cioè spende solo per sé, per gli altri no. Non ti offre nemmeno un hamburger, una cenettina? Se lo fa con un gesto molto plateale, quindi dice: ho già pagato io, per dire, magari un conto da 20-30 euro lo fa pesare enormemente. Il gentiluomo nemmeno se ne fa accorgere quando paga, fa un gesto, esatto. Niente, la donna nemmeno deve accorgersene che qualcuno paga il conto, deve pensare che lì è. Lei passa, mangia tranquillamente, si pensa ad altro. E in cos'altro è pidocchioso? Beh, per esempio il Natale, quando dice: ma il Natale ormai dà fastidio a tutti, ma io Natale non ti faccio regalo perché sei una persona emancipata, ma dai, no. Beh, però questo va, posso dire una cosa, io sono tutt'altro che pitocco, anzi, purtroppo ho molto poco il senso del denaro, a volte spendo più di quello che mi posso permettere. Ma anch'io la cosa del regalo per me è molto fastidiosa, regalo per il compleanno, per Natale, una cosa che, ma non lo faccio per pidocchieria, perché è troppa fatica. Se uno mi dice dammi soldi me lo compro da solo, sì, allora ando a perdere tempo con un regalo, non c'ho più voglia, non mi piace. Non so a che categoria appartengo, forse sbaglio. No, quella è l'alternativa, dice dimmi cosa vuoi, te lo vai comprati, a comprare, infatti, cosa. Per vedere che nemmeno. Ma più che altro questo è per giustificarti che non sei pidocchioso, che proprio non te ne frega niente di un regalo, non lo trovi importante. Se però qualcuno ti valuta anche in base al tuo potere d'acquisto o ai regali che fai, allora vattelo a prendere, perché per me è molto più gravoso onestamente pensare e scegliere il regalo per una persona che comperarglielo in assoluto. Ma sì, anche una perdita di tempo, certo. Ma in questo caso è un'altra cosa. Una cosa è tu vedi un oggetto che pensi che è adatto per te. Trovo qualcosa adatto per te. Che ne so, io vedo in un negozio specializzato in materiali bellici una maschera antigas. È tua, te la regalo, anche se poi magari fra noi non c'è nessun altro rapporto che una conoscenza di vagone di scompartimento di treno. La maschera antigas sarebbe un bel regalo, ti piacerebbe. Una bella con tutti sì. I filtri. E quella è per te. È molto utile. Sì, ma non devo lambiccarmi nell'acquistarla. So che è un oggetto che sembra fatto apposta per te e te lo regalo. Non lo so, mi dispiace che c'è questa amarezza verso gli uomini. Adesso capisco perché passi di poltrona in poltrona e non ne trovi mai uno giusto. Ma diciamo il giro delle persone frequenti, voi donne che vi dite tutto fra voi, perché le donne si dicono tutto, è vero? Sì, abbastanza. Ma perché poi lo negate? Se uno chiede, ma questa cosa la racconti a tua amica? No, ma figurati, però sei tutto dei fidanzati, degli amici, dei mariti, dei compagni, degli amanti, di tutte le amiche di una donna con cui parli. Tu parli 10 minuti con una donna e implacabilmente sai tutte le miserie intime di tutti gli uomini di terzo grado rispetto al giro delle sue amiche. Voi donne raccontate sempre tutto, sì? Sì, più anche degli tra uomini, amici, più degli anche uomini. Con gli amici, uomini. Lo so, quella è la tristezza, perché uno dice, se questa mi racconta tutto dei fidanzati o dei mariti delle amiche, tu pensa di me cosa potranno dire le donne che mi hanno conosciuto, che mi conoscono. Sì, ma c'è anche un'altra cosa, che tante volte sono gli uomini che si confidano e raccontano magari disperazioni amorose, sono appena stati lasciati. Alle amiche, però lo fanno magari dopo qualche tempo, si innamorano di questa amica o ci vogliono provare. E quell'amica che si è dovuta sentire tutti i racconti della tristezza, dell'abbandono, di quest'altra che probabilmente si è rifatta una vita mentre lui è da solo, si accorgono che vuole magari qualcosa di più dell'amicizia. È un problema, però. È il modo peggiore, perché non ce la farà mai più. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. E dopo che sai le miserie di un uomo, poi resettare tutto e cominciare a pensarlo splendido. Quanto ha pianto, ha detto questa mi fa solo. C'è un uomo piagnone, penso che faccia schifo a chiunque, o sbaglio? Sì, abbastanza. L'uomo che piange per amore, poi figuriamoci, mamma mia, cosa orribile. Un impiatto, dice non me lo levo più dalle scatole questo, si suicida. Sì, sì, è la prima cosa che si pensa, infatti, e non lo si vede mai come una possibile preda. Quando cambia di ruolo, che da piagnone vuole fare invece il conquistatore, dopo cambia capiamo. Decisamente, dice no vabbè, ma cosa vuoi adesso, dai. E poi ti dà proprio l'impressione che ti dovresti prendere la minestrina riscaldata di un'altra, è brutto. Sì. È sempre usato. Così. Noi tutti siamo sempre la minestra riscaldata di qualcun altro, dalla pubertà in poi siamo sempre una minestra riscaldata per chiunque. Almeno uno può anche avere una fantasia, non pensarlo proprio così, no? Sarebbe stato meglio che non l'avesse raccontato. Come quando voi donne raccontate i vostri precedenti, ma rendete conto il dolore che date a un uomo? Ci sono delle uomini molto. Ma no, ma cosa vuoi che ci sia? Ormai è una storia finita, sì, sai, con questo mio amante, con questo mio precedente compagno, sì, sai, era una cosa terribile, era super dotato, ma ti viene una cosa. Comincio questi racconti che tu vorresti avere quel, che ne so, il dottor Spock che ti pigia sul collo e ti fa dimenticare tutto. Perché siete così? No, quei racconti sono finti. No, quei racconti sono finti, sono finti. Vogliono scatenare gelosia nel nuovo partner, una gelosia retroattiva, che è una cosa anche molto stupida. Ah, quindi sono finti. Beh, allora ci siamo rassicurati. Sì, sicuramente sono finti, perché nessuno che ha risolto una storia passata e si sta buttando in una storia nuova va a raccontare tutti i pregressi e le magnificenze di, poi ovviamente ingigantendole, perché insomma ci aveva superdotato qua, là. Ma adesso ho detto per fare un paradosso, no, ma raccontano anche cose molto banali, che ne so, stavamo bene, andiamo a fare in vacanza, stavamo tutto il giorno chiusi in albergo, sai, non uscivamo mai. Cassi davvero? Sì, mai, abbiamo fatto una vacanza una settimana, siamo stati, che so, alle Seychelles, ma pensa, chiusi in albergo dalla mattina alla sera, lo so, uno dice mamma mia, si pone mille illusioni, speriamo, che ne so, che lui avesse la diarrea, quindi erano chiusi per questo, invece no, poi dico no, ma sai, poi alla fine sono dovuto tornare, ero a pezzi, donne dicono questo, capito, che crudeltà, sì. Poi lamentare. No, sono vanterie da finte. Sì, sono vanterie per darsi un po' più di tono con la nuova conquista, ma in realtà poi non credo che siano tutte così rose e fiori. Vabbè, ti auguro di prendere un treno una volta, ti porti lontano e non ti porti mai più indietro. Grazie. Ciao, buon viaggio. Ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Questa volta non posso dire che ho incontrato per caso il viaggiatore misterioso. Sono andato a cercarlo. Sono andato a cercarlo perché è la persona ormai più richiesta. Da quando ho cominciato a viaggiare in treno per la radio e raccontare i viaggiatori del treno, non c'è mai stato un viaggiatore che ha avuto un così ampio consenso, una così ampia richiesta di nuovi contatti, nuovi racconti, quanto il nostro viaggiatore misterioso. Ormai lo chiamiamo Marco Polo. Di lui non sappiamo null'altro che quello che lui ci racconta. Di lui non abbiamo nessuna prova di certezza che quello che ci racconta corrisponda a realtà, se non l'interpretazione che può fare ognuno di voi ascoltando la sua voce. Mi ha detto in un attimo che io non ho registrato e che non ascolterete mai. Dice: Nicoletti, ma perché dovrei prenderti per il culo? Perché dovrei dirti cose che non ho vissuto? Perché dovrei immaginare qualcosa che in realtà non fa parte della mia vita? Dammene una ragione, a me cosa mi importa? Tu ci sia o non ci sia, per me è totalmente indifferente. Io continuerò a seguitare, a viaggiare nel corso della mia vita, per quello che ancora la mia vita mi darà di tempo, di fiato, di forze, e poi vorrò andare a approdare in un paese lontano e lì rimarrò. Io posso fare a meno del mondo, posso fare a meno di voi che mi ascoltate, posso fare a meno di te che mi fai domande.